guardarmi con quell'aria severa. Non è colpa mia incontrarti stasera. Colpa del fato, io non c'entro niente. Invitato da qualcuno come te probabilmente. Ma non ti preoccupare, non voglio certo disturbare. Metterti in imbarazzo, non sono mica pazzo. Con un bicchiere in mano me ne starò in disparte. Molto raramente guarderò dalla tua parte. Con discrezione ti osservo da lontano. Erano anni che non ci vedevamo. Sei sempre bella come mi ero immaginato. Il tuo sorriso non l'ho mai scordato. Ma dimmi tu come si fa. Dimenticare la felicità. Quando hai volato così in alto, sopravvivi cercando di pensare ad altro. Ora sei qui davanti a me insieme a lui. Cosa buffa o forse la pazzia. In fondo io ti sento ancora mia. Ma c'è una cosa che mi ha sempre consolato. Almeno tu ciò che volevi hai avuto. Se sei felice, allora a modo mio sono un poco contento pure io. Si è fatto tardi e la festa è ormai finita. Ti guardo e penso, ti rivedrò tra un'altra vita. Nella mia mente tanti ricordi brutti e belli. Ma poi mi rendo conto che non siamo più quelli. Quando i miei sguardi ti facevano arrossire. Le mie parole ti facevano sognare. Guardavi e mi parlavi con dolcezza. Quando per farmi innamorare è bastata una tua carezza.